raggruppa tutte le varie realtà del gruppo, oltre a STR, Sole 24 Ore, Business Media, Edilio. Cerchiamo di ovviamente presentare tutta l'offerta completa dell'area edilizia e building del gruppo attraverso appunto questa forma di uno stand grande, di un'area del gruppo 24 Ore, in modo tale appunto da offrire alla clientela tutta l'offerta completa che il Sole 24 Ore appunto offre per il settore dell'edilizia. È possibile fare un bilancio della appunto partecipazione del pubblico presso gli stand del gruppo e ricordare anche quelli che sono stati poi gli appuntamenti delle pillole dell'architettura che sono stati particolarmente seguiti? Sì, in effetti oltre allo stand principale istituzionale appunto del gruppo al padiglione 6, quest'anno abbiamo creato e realizzato anche un'altra area chiamata pillole di architettura, dove appunto si sono svolti dei convegni, delle iniziative ogni giorno su tematiche ovviamente attualità, dell'edilizia, dell'architettura, del design, dove sono stati appunto un'affluenza molto molto elevata e che per noi è stato un ottimo esperimento. In generale al nostro padiglione, al nostro stand appunto istituzionale, l'affluenza è stata molto molto positiva.